Grande Mauro Meazza, diglielo alla Rosciani che ormai il campionato è falsato, quindi se vincono lo scudetto è uno scudetto cartonato. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Heidi, il tuo nido è sui monti. Guarda, ve la lascio passare Heidi questa mattina solo perché è un segno di ritorno alla normalità. Sdrammatizziamo queste giornate e utilizziamo anche delle colonne sonore un po' così frufru. Un po' diverse, Deborah, non si può sempre solo parlare di coronavirus. No, basta, guarda, ne abbiamo fin sopra i capelli. Già il campionato è contagiato, come ha detto l'ascoltatore. Io volevo bypassare tranquillamente, proprio concentrandomi sulla sigla scelta per questo. Sei sfebbrato piuttosto? Sì, mi sento bene, grazie. No, tu? Perché anche noi siamo monitorati la tu mattina. Piuttosto? Sì, siamo su 36, quindi va tutto bene. A posto. Allora, Heidi, ti sorridono i conti, i conti bancari. È vero. Perché come puoi leggere, cara Deborah, come tutti possono leggere nelle pagine enorme tributi odierne, pagine da leggere sempre religiosamente anche in questi giorni di contagi, virus. Oserei dire e soprattutto quant'altro. In questi giorni, perché spiegate rigo rigo tutti i provvedimenti che vengono giorno dopo giorno emanati per fronteggiare sia dal punto di vista sanitario il contagio, ma anche chiaramente quello che è l'altra versante più preoccupante, il contagio economico. Allora, che è successo? È successo che il fisco elvetico ha autorizzato a fornire le informazioni che erano state chieste dalla nostra Guardia di Finanza già nel 2017. Allora, per la clientela italiana del Credit Suisse si apre adesso un nuovo fronte, perché appunto, essendo stata accolta questa richiesta di informazioni inoltrata a suo tempo dalla nostra Guardia di Finanza, ebbene, migliaia di clienti ed ex clienti stanno ricevendo una lettera dalla banca, dalla Credit Suisse, allegata alla comunicazione del 2019, con la quale lo stesso fisco svizzero chiedeva a Credit Suisse le informazioni in un certo periodo dei correntisti. Il periodo considerato è febbraio 2015, dicembre 2017. Poi è stato appunto firmato nel 2019 un nuovo protocollo Italia-Svizzera che ha sostanzialmente molto più liberalizzato la richiesta di queste informazioni, quindi è venuto meno quello che era il proverbiale riserbo svizzero, non si può più parlare in questo caso di segreto bancario, ma il riserbo comunque restava. A questo punto saranno i clienti che ricevono, i clienti di Credit Suisse e anche i clienti della BSI, che sono stati già colpiti dal medesimo provvedimento nel dicembre scorso. Spiega tutto il Sole 24 Ore di oggi a pagina 25. Invece volevo raccontarti un'altra notizia che a me ha fatto particolarmente piacere, così come ho già visto che tu ghignavi sotto il microfono alla lettura della notizia precedente. Vabbè, 1-1 stamattina siamo. No, a parte gli scherzi. Allora, sapete che nel 2013 è stata varata per gli appassionati di questi argomenti una legge, la legge Golfo Mosca, che era quella norma che sostanzialmente imponeva alle aziende, soprattutto quelle di una certa dimensione, di una certa tipologia, di inserire all'interno dei loro consigli di amministrazione, dei loro board, una rappresentanza delle cosiddette dei cosiddetti generi meno rappresentati. Quindi è una norma che imponeva la presenza di una quota di genere, di una componente sostanzialmente femminile. Allora, da quando è stata varata questa norma, poi peraltro è stata anche rinnovata lo scorso anno per quello che riguarda il suo mandato, ha avuto anche un costante monitoraggio, e ieri proprio la Consob ha varato l'ultimo rapporto annuale sulla corporate governance, cercando di monitorare, appunto, conteggiare, verificare quella che è la presenza femminile negli organi sociali, ed è stato riscontrato che ha superato rispettivamente il 36% nei board e il 39% nei collegi sindacali. Quindi oltre il 72% delle donne sono amministratori indipendenti delle aziende, percentuale in continua crescita appunto dal 2013. Cosa è successo però? Che è ben diversa la situazione se si vanno a considerare i vertici delle società quotate, le donne che ricoprono la carica di amministratore delegato in 15 società, che rappresentano il 2,5% del mercato in termini di capitalizzazione, mentre presiedono il board in 25 società, rappresentanti circa un terzo della capitalizzazione di mercato. Per cui, come dire, bene ma non benissimo. Non tanta abbiamo strada finito, diciamo, il lavoro, il percorso, esatto, non si è completato. Tra l'altro, questa è una norma che è stata stata anche un pochino vista non proprio di buon grado da tutte le donne, soprattutto che sono così in prima linea in queste battaglie, perché insomma dicono, quando c'è il grimaldello legislativo noi vogliamo andare avanti per i nostri meriti. Conoscete bene insomma di che natura è il dibattito, ma in ogni caso noi abbiamo appurato che poi quando c'è una norma che un pochino spinge per andare in una certa direzione è utile per smuovere un po' di cose, serve in tanti ambiti, come per esempio potrebbe servire per come dire, sospendere i mutui delle persone che sono in difficoltà. Cioè, guarda che volo pindarico che ho fatto per arrivare al tema che vorremmo affrontare questa mattina. Infatti, guarda, mi sono rimasto quasi sorpreso e spiazzato, sì, per vabbè, usare un termine ugualmente calcistico. Ma allora, con gioia annuncio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di cosa ci occuperemo. Allora, dopo il giornaliere del risparmio, torniamo a parlare con Adiconsum, perché, come sapete, periodicamente apriamo questo spazio per la, diciamo, prevenire l'usura e il sovraindebitamento proprio con appunto Adiconsum e con i responsabili di queste attività di prevenzione, prevenzione dall'usura e prevenzione dal sovraindebitamento, come è possibile aiutare chi si ritrova in una situazione di eccessivi debiti. Nella seconda parte del nostro programma però parleremo invece di mutui, perché, cara Debora, in Gazzetta Ufficiale è apparso, ma c'è, guarda lì quanto è bello, fresco fresco questo documento. Sì, il decreto legge numero 9 del 2 marzo, è quello appunto varato per l'emergenza coronavirus, contiene tutta una serie di misure di sostegno all'economia, tra cui una misura molto importante che riguarda la sospensione dei mutui. E allora parleremo di questo aspetto relativo naturalmente alle vicende di queste settimane del allora, virus. Allora c'è da precisare che l'articolo a cui tu ti riferisci è ancora molto ridotto, per cui bisognerà capire come le banche intenderanno implementare questa misura. La misura in questione in realtà rafforza uno strumento che esiste già, che è il fondo che consente appunto alle persone in difficoltà di sospendere il mutuo nel caso in cui non riescano a pagarlo, ma è sempre, come dire, uno strumento che ha una dotazione economica, e quando questa finisce chiaramente le persone in difficoltà non possono più essere accontentate. Quindi mi pare di ricordare che l'idea sarebbe quella di ampliare la disponibilità economico-finanziaria di questo strumento già esistente. Però l'articolo dice poco, quindi noi ragioneremo stamattina su quello che abbiamo fino a questo momento. Calma e gesso. Ma di solito sono io quello pedante, invece vedi, questa volta sei tu a mettere dei paletti. È che tu due dei denari lo fai con me da 3 anni circa, ma sai da quanti anni ci occupiamo di famiglie in difficoltà che hanno bisogno di sospendere il mutuo? Abbiamo avuto le famose moratorie, l'avviso comune per le imprese, tante iniziative di sistema che vanno e vengono, e adesso questa ritorna. Ci fa piacere perché è un tema importante per chi è in difficoltà in queste settimane. 800 24 è il numero, di nuovo 0024, lo ripeto adesso anche in italiano, 800 24 0024 è il numero verde abituale per intervenire in diretta, SMS e WhatsApp al 349 238 6666. Parliamo, come vi abbiamo detto, di sovraindebitamento e di aiuti economici per quanto riguarda i mutui. Prima naturalmente ci sarà però il giornale radio del risparmio. Ta-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na. Stavo infatti chiedendomi, ma non ti alzi al cospetto di un inno? Questo è l'inno europeo, e quindi bisogna alzarsi. Tra l'altro non è molto frequente poterlo sentire. Ci capita in genere quando veniamo invitati a queste serate un po' in questi club esclusivi Lions, i Rotary, che fanno sentire l'inno italiano, l'inno europeo e poi l'inno del club. E questo, insomma, volevo raccontare questa cosa che non interessa a nessuno, ma mi sembrava divertente. Comunque io nel non dubbio mi sono nessuno. Alzato. Ma perché abbiamo scelto con Marco Lombardo di ricorrere perché a Ludwig? Siete due malati e io mi dissocio totalmente da questa scelta musicale. Perché c'è una ricorrenza del numero 9 oggi che riguarda proprio il decreto legge numero 9. Perché il decreto legge numero 9, quello di cui ci occuperemo anche per la materia dei mutui, ma che contiene molte altre cose, ad esempio la validità dell'anno scolastico, la cassa integrazione, i rimborsi e i voucher, ne parliamo tra un attimo, per il settore del turismo. Ebbene, questo decreto alla data del 2 marzo 2020, quindi fa 02 03 20 20, e se sommate i numeri fa proprio 9, che è il numero 9 del decreto. Abbiamo messo la sinfonia numero 9. Io sono disperata solo ad ascoltarti stamattina. Quello là gli fa male fare lo smart working, adesso glielo revoco immediatamente. No, guarda, anche su quello segnalo che il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che abbiamo potuto leggere ieri, estende per 6 mesi la possibilità di ricorrere a questo smart working agevolato, facilitato. Ma tutto questo noi l'abbiamo messo un po' in ordine nel nostro giornale radio del virus. Esatto, esatto. Allora, io do i temi e tu fai lo svolgimento. Vediamo titolo se le so. Titolo tutti. Del tema: slittano i termini per la precompilata. Questa la so. Dai. Allora, come era stato annunciato, la certificazione unica, cioè quel foglietto che i datori ci devono dare, i datori, i committenti ci devono dare per riepilogare quanto abbiamo percepito nel 2019, allora con i dati anche di oneri detraibili e deducibili, andranno inviati entro il 31 marzo. Il termine per il rilascio della precompilata da parte del fisco, sapete che ogni anno abitualmente eravamo a metà aprile, potevamo vedere, prendere visione della precompilata. Questa volta il termine passa al 5 di maggio, quindi va in avanti di una ventina di giorni. La consegna del modello sarà entro il 30 di settembre. Questa prima notizia e primo articolo del decreto legge numero 9. Quest'altra la so anche io, e peraltro viene molto ben spiegata questa mattina anche da un accurato pezzo di Maurizio Caprino e Giuseppe Latour, sempre sul Sole 24 Ore. Abbiamo tra i primi temi di cui ci siamo dedicati in questi giorni, proprio per anche noi in qualche maniera fronteggiare le conseguenze economiche di questa diffusione di questa epidemia da coronavirus, abbiamo parlato molto di chi deve, volente o nolente, sospendere i suoi trasferimenti, i viaggi. Allora abbiamo già raccontato come, per quello che riguarda i trasferimenti di carattere, gli spostamenti, i viaggi di carattere ferroviario, diciamo che le due grandi compagnie italiane, perché quelle sono, si sono, come dire, attrezzate in via autonoma, prevedendo il rimborso per chi non può viaggiare in queste settimane, o il rimborso o quantomeno il riconoscimento di un voucher da poter consumare nei prossimi mesi. È molto più complicata la situazione invece per i voli aerei, e qui il provvedimento interviene, mi pare di capire, direttamente chiedendo anche in questo caso alle compagnie di farsi carico di questa situazione. Però è un po' più complesso il tema, e peraltro un altro ambito di complessità riguarda i tour operator, perché comunque chi si organizza con un viaggio con un tour operator lo fa una volta l'anno, quindi non è che magari vola più spesso e quindi si può mettere d'accordo con la compagnia aerea con il riconoscimento, come dicevo io, di buoni, di voucher, di indennizzi di altra natura. E quindi, siccome le situazioni sono un po' a macchia di leopardo, è chiaro che qua forse il provvedimento deve essere un pochino più chiaro su quello che viene chiesto alle strutture, che sono poi duramente colpite anche da questa crisi, per cui poi bisognerà aiutare loro per gestire. Esatto. Loro, no? Da una parte dobbiamo aiutare i viaggiatori, che tali non sono stati perché hanno rinunciato al viaggio, e dall'altra però c'è da considerare lo stato di difficoltà del settore. Rimborso o voucher, questa è un po' l'alternativa che propone il decreto legge numero 9. È un decreto legge, quindi verrà discusso in Parlamento. Esatto. Probabilmente verrà anche modificato, ci auguriamo migliorato nella sua definizione. Io ti voglio segnalare un'ultima cosa da questo decreto legge, che è l'ampliamento dei beni che le aziende possono donare. Nel decreto legge numero 9, per sostenere in generale l'economia, è stata anche molto ampliata la gamma dei prodotti che le aziende possono donare agli enti pubblici e alle organizzazioni no profit, beneficiando in questo modo delle agevolazioni fiscali. Esiste una legge che si chiama legge antisprechi, è la 166 del 2016, e ci sono appunto rimanenze di prodotti invenduti, ci sono blocchi dell'export che hanno impedito materialmente la consegna dei beni. Allora è stata estesa dalla questa applicazione la legge antisprechi a beni di a più ampia natura, anche beni tecnologici, beni materiali, e non solo alle questioni che riguardano più sostanzialmente l'alimentare. Bene, allora abbiamo già fatto prima la scaletta della nostra trasmissione di questa mattina. Il primo punto all'ordine del giorno lo abbiamo, come dire, gestito, l'abbiamo già affrontato. Adesso andiamo al secondo punto all'ordine del giorno: lo sportello reclami di Due di Denari. Dillo a Due di Denari. I problemi della famiglia Bianchi cominciano nel 2010, con il fallimento di un'importante attività economica in provincia di Chieti, dove moglie e marito, cinquantenni, lavorano entrambi come dipendenti, percependo buoni stipendi. Il mancato pagamento delle mensilità per un intero anno, la cassa integrazione che arriva in ritardo, prosegue a singhiozzo e che infine si blocca, causano un grave squilibrio al bilancio familiare, fino allora in ottimo stato. Gli impegni finanziari consistono nella restituzione di 79.000 euro ottenuti per ristrutturare casa, acquistare mobilio, un'automobile e sistemare i denti di un familiare. I debiti sono stati contratti negli anni precedenti con tre diverse società finanziarie e complessivamente le rate pesano per circa 1.000 euro mensili. Venendo a mancare la fonte di reddito per entrambi, però, diventano presto insostenibili. Il fallimento dell'azienda, fortunatamente, si risolve con la vendita dell'attività imprenditoriale. Il lavoro riprende però per uno solo dei coniugi e con una decurtazione dello stipendio, mentre l'altro prosegue con la cassa integrazione. Il reddito mensile su cui la famiglia può contare adesso è di 2.100 euro, ma il debito è nel frattempo schizzato a 33.000 euro fra residui dei tre finanziamenti, rate arretrate e relativi interessi di mora applicati dai creditori. La situazione è questa quando la famiglia si rivolge, su indicazione della prefettura, al fondo antiusura gestito da Adiconsum. Sai Mauro, stavo pensando che noi molto spesso raccomandiamo ai nostri ascoltatori, quando ci raccontano delle loro scelte di risparmio e di investimento, raccomandiamo di diversificare. Forse la battaglia del futuro sarà anche quella, se possibile, di diversificare il posto di lavoro all'interno di una famiglia, fare in modo che mai entrambe le persone di una coppia lavorino nello stesso posto di lavoro. Adesso so che può sembrare, come dire, una considerazione folle, però dobbiamo, diciamo, come dire, in prospettiva pensare anche a questo. Uno di quegli indici magari di maggiore debolezza, di maggiore esposizione, quindi che so, anche consigliare l'idea di avere un qualche altro introito, ove possibile naturalmente, che so, affittare un box, o cioè dare in affitto intendo, cioè trovare altri introiti. Non Sono so come la vede sfide, sì. Il nostro ospite Francesco Iorio, che è tornato qui proprio per l'occasione di questo spazio che gestiamo molto volentieri con Adiconsum, responsabile prevenzione usura e sovraindebitamento. Buongiorno, bentornato a Due di Denari. Buongiorno a voi. Allora, dottore Iorio, questa indicazione che dava Deborah, insomma, attenzione se dipendete, se tutte le entrate della famiglia dipendono da un'unica fonte, cioè un'unica azienda, effettivamente potrebbe essere un indice di debolezza in qualche modo, anche se l'azienda per carità è solidissima. Diciamo proprio di sì, purtroppo. Perché qui nel caso, nel caso di questa famiglia, appunto, si è questa cosa della venir meno della così del buon funzionamento dell'azienda ha provocato una serie di cose a cascata, per cui poi si è sommata anche la debolezza data dall'età, perché trovandosi oltre i 50 anni sappiamo tutti che è più complicato ritrovare un posto, quindi diminuzione drastica del reddito e così insomma si cominciano a fare prestiti, troppi prestiti. Questo per riassumere in linee generali. Prego. L'ha puntualizzato lei. Diciamo, qui ci sono state due cause fondamentalmente che hanno portato a questa situazione di sovraindebitamento. La prima è una causa indiretta, ovvero nel caso specifico la perdita imprevista del doppio posto di lavoro, no? Che all'improvviso ha fatto crollare tutte le certezze economiche, non solo del nucleo familiare. L'altra invece è una causa diretta, che noi molto più spesso andiamo poi a verificare nelle richieste che pervengono qui in associazione di accesso al fondo, che è quella chiaramente di sovravvalutare determinate situazioni, ovvero il fatto comunque di sentirsi sicuri e di avere dei redditi che mettevano questo nucleo familiare in quel momento nelle condizioni di accendere una serie di prestiti, purtroppo contemporaneamente li ha visti poi in una situazione di estrema difficoltà nel momento in cui questo lavoro, tutti e due i posti di lavoro sono stati chiaramente sono stati persi. E quindi chiaramente ci si è trovati con tre finanziamenti accesi quasi tutti nello stesso momento per ristrutturare la casa, per chiaramente le spese dentistiche e quant'altro, a non poter più sostenere quindi le spese e le rate in particolare che che precedentemente potranno essere assolte. Certo. Ecco, noi il consiglio che diamo è quello chiaramente di pensare, no? Soprattutto in questo momento di crisi, prima di accendere prestiti. Facciamo un esempio, no? Qui nel caso specifico c'erano delle spese, in parte potevano essere anche considerate voluttuarie. Noi per esempio facciamo un esempio pratico, è quello chiaramente di andare a prevedere l'usura ad esempio degli elettrodomestici, no? Quindi accantonare se è possibile per l'acquisto di beni al consumo necessari che non costano cifre esorbitanti, delle piccole somme per evitare poi di trovarsi invece insieme accesi tantissimi prestiti, tantissime rate, perché l'imprevisto purtroppo al giorno d'oggi è dietro l'angolo e quindi poi ci si trova anche in una situazione di non poter più assolvere agli impegni precedentemente assunti. È un po' come dire, no avvocato, certo, capovolgiamo l'approccio, nel senso che se tu ti senti in forza di sostenere una rata e quindi vuoi contrarre un prestito per fare un acquisto di un bene che ti serve, ma magari se questo acquisto si può rimandare, prova a mettere da parte la stessa cifra, certo, che tu utilizzeresti per pagare quella rata, e quando poi hai la capienza necessaria acquista direttamente il bene. Assolutamente sì, proprio questo volevo dire, certo, nel senso che se c'è possibilità cerchiamo di accantonare nei momenti in cui le cose vanno bene delle somme che ci permettono di acquistare magari dei beni importanti come gli elettrodomestici magari, certo, in contanti. E questa poi è la pillola di educazione finanziaria. Certo, avvocato, come il fondo di prevenzione antiusura ha gestito la situazione di questa famiglia Bianchi? Cosa avete fatto? Allora, intanto abbiamo verificato qual era l'esatta situazione debitoria, quindi abbiamo fatto una riconnessione precisa sul debito complessivo. Consideri, qui c'è da dire un'altra cosa, un debito iniziale di 21.000 euro sale con gli interessi nel giro di pochissimo tempo a 33.000 euro. Quindi c'è stata la necessità di contattare ogni singolo creditore e proporre a ogni singolo creditore delle offerte a saldo e stralcio per ridurre intanto tutte le spese relative anche agli interessi che sono stati imputati su ogni singolo contratto e per aumentare anche quindi con un finanziamento di importo inferiore intorno ai 20.000 euro la capacità di rimborso della rata, quindi per mettere nelle condizioni questa famiglia di onorare con tranquillità la rata del finanziamento garantito dal fondo di prevenzione usura, in modo proprio di mettere nelle condizioni di sostentarsi con tranquillità e di sostenere la rata del finanziamento garantito dal fondo. Certo, ma anche questo fondo naturalmente richiede che chi lo chiede abbia bisogno di presentare una piccola garanzia. In questo caso era sufficiente quella che aveva indotta la famiglia Bianchi, cioè un rapporto di lavoro esistente, mi pare. Sì, è chiaro, diciamo che la situazione sicuramente non era rosea come in passato, è continuato per uno dei due la cassa integrazione, l'altro comunque ci ha ripreso a lavorare, noi sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare ci siamo fatti due conti, con i cosiddetti conti della serva, no? Abbiamo verificato a quanto chiaramente ammontavano le spese per il sostentamento del nucleo familiare, abbiamo verificato di fatto l'importo preciso della rata da sostenere, il saldo era un saldo positivo di bilancio, c'era cioè sicuramente un netto miglioramento di bilancio a prescindere dal fatto che comunque l'introito complessivo in ogni caso non era più quello che loro proseguivano, sì, in precedenza, e comunque in ogni caso ci sono rientrati tranquillamente. L'operazione è stata un'operazione perfettamente in linea con quanto disposto dal regolamento attuativo del Ministero, c'è stato effettivamente un notevole miglioramento di bilancio, c'è stata questa operazione di consolidamento attraverso le trattative chiuse positivamente con i creditori che ha ridotto fortemente il debito e quindi una serie di concause positive ha rimesso in carreggiata questa famiglia che di fatto, questo non lo diciamo, almeno fino adesso non abbiamo parlato, oltre al rischio del suo indebitamento non bisogna mai dimenticare la possibilità che queste persone possano ricorrere al credito illegale, all'usura. Certo, no, è vero, ha ragione Iorio, perché noi lo diamo quasi un po' per scontato. Qui lo spirito dell'intervento è anche quello di evitare che queste situazioni finiscano poi nelle grinfie degli strozzini. Quindi, insomma, mi piace ricordare www.adiconsum.it, lì trovate sul sito appunto dell'Adiconsum l'indicazione per il fondo di prevenzione dall'usura e dal sovraindebitamento. Ci sono anche ovviamente i numeri di telefono, abbiamo già twittato l'indirizzo per così poter contattare direttamente questa pagina, e poi potete anche scrivere un'email prevenzioneusura@adiconsum.it. Debora. Allora sì, vado a fare i mercati adesso, però volevo rispondere ad un ascoltatore. prego. Che ha mandato un messaggio al quale volei replicare. Ma davvero pensate che chi ascolta Radio 24 abbia bisogno di accantonare del denaro dei risparmi per gli elettrodomestici? Capisco il voler coprire tutta la platea degli ascoltatori, ma come tutto il tempo dedicato al reddito di cittadinanza, quanti ascoltatori, oltre ad innervosirsi, è servito? Signor Paolo, se lei sapesse quante mail ci arrivano di persone che hanno bisogno di avere queste informazioni perché sono in difficoltà a ripagare i propri debiti, quindi quando ci occupiamo di risparmio, magari di portafogli importanti, contestate il fatto che ci dedichiamo a questi argomenti perché oggi non ci sono più soldi per risparmiare. Insomma, come la fai, la sbagli, però Paolo, io le assicuro che invece il nostro è totale spirito di servizio. Queste informazioni servono a molte persone perché, a parte quelle che vanno in onda, ce ne sono tantissime altre che ci scrivono e che non vogliono salire alla ribalta della cronaca raccontando queste situazioni spiacevoli nelle quali si trovano e che noi siamo invece ben contenti di aiutare. Ma sai cosa ti dico? Che la vaga bene, che la vaga male, la borsa vogliamo ascoltare. Ho apprezzato particolarmente il sapiente uso dell'enjambement. Due di denari. È il mutuo, il pensiero peggiore del mondo, che ho intorno, tasso fisso. Allora, cosa mi dice il decreto 9? Cosa ci dice il decreto 9? Beh, certo che è stato un po' stitico, diciamo, in questo marzo 2020, cara Deborah. Poteva essere un po' più chiaro. È l'atteso decreto legge, sai, quello di cui parlavamo già ieri, è stato varato venerdì. Allora, all'articolo 26, l'ho preso appunto consultando la Gazzetta nel numero di ieri, dice la rubrica dell'articolo, così si chiama il titolo, insomma, dell'articolo: estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il disposto, cioè l'articolo, è composto da un solo comma e non è di quelli immediatamente comprensibili, quindi se adesso tu e magari anche la tua ospite di valore mondiale, come siamo abituati ad avere qui a Due di Denari, vogliono chiarirmi, perché è uno di quegli articoli un po' ostici che dice all'articolo tale, comma tale, però legge se tu richiami la norma originaria che ha istituito questo fondo, sono sicura che io, ma insieme ad Anna Vizzari, ce la ricordiamo. Allora, innanzitutto benvenuta ad Anna Vizzari, che ci aiuterà a decifrare questo comma, e dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Allora, il comma dice all'articolo tale, comma tale della legge tale, alla lettera C aggiunta la lettera C bis. Sì. Quindi fin qui è tutto chiarissimo, no? Dice, certo, chiarissimo, ma non è nulla di nuovo. Cioè, normalmente le leggi in Italia purtroppo sono molto spesso fatte così. Sì, però, e questa è la forza anche della lettura religiosa delle pagine di norme e tributi. Comunque la sostanza è sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni. Allora uno dice, probabilmente qui vogliamo sospendere i mutui per chi ha sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni. Esatto, sulla base però di una norma già preesistente, Anna Vizzari, che era quella norma del 2007 che aveva istituito per prima il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Assolutamente sì, e stiamo parlando sostanzialmente di uno fondo un fondo statale che permette ai mutuatari che hanno acceso un mutuo per l'acquisto della loro abitazione principale, se in difficoltà, di poter ottenere la sospensione delle rate del loro mutuo per un massimo di 18 mesi, però appunto, quindi con poi un allungamento del piano di ammortamento, ma ovviamente non a tutti i mutuatari che hanno acquistato un'abitazione principale, devono rispettare determinati requisiti, per cui parlare soltanto di questa lettera D senza tener conto di quello che prevede già la norma originaria, nonché il regolamento di attuazione del fondo, è un po' riduttivo, perché ci sono altri criteri da rispettare. E quindi immaginiamo che verrà dettagliato un po' meglio questa disposizione appunto prossimamente. Poi ricordiamo che ci sarà anche tutto il passaggio direttamente alle banche italiane, che dovranno capire come fare, e non è detto che diano anche loro dei suggerimenti su come rendere operativa questa norma. Sì, assolutamente, ci sarà sicuramente bisogno di vedere il regolamento di attuazione del fondo, perché la norma scritta com'è lascia molti dubbi, nel senso che se andiamo a vedere già la norma originaria dice che comunque la sospensione può essere chiesta se l'evento, diciamo così, preoccupante o comunque ha messo in difficoltà il mutuatario si è verificato nei 3 anni precedenti la richiesta al fondo. È chiaro che già questa situazione in questo caso non si verifica, perché stiamo parlando di un evento che è accaduto in questo periodo, quindi tra metà febbraio e supponiamo metà marzo, e quindi sicuramente quel requisito non c'è, quindi il richiamo alla norma così com'è non vale. E peraltro bisogna anche capire quale documentazione bisogna comunque portare alla banca per dimostrare che effettivamente c'è stata questa sospensione o questa riduzione, perché in tutti gli altri casi il regolamento del fondo prevede delle documentazioni ben specifiche per poter accedere alla procedura, e qui invece questo manca, quindi sicuramente ci aspettiamo un'estensione, comunque un nuovo regolamento, comunque delle nuove norme del regolamento per poter applicare questa estensione. Mauro, non ci sono dettagli rispetto al luogo in cui si abita, cioè nel senso zona rossa, zona gialla, zona blu, tutto il territorio nazionale? No, io appunto mi affido per carità ad Anna Vizzari, però per come è scritto questo articolo e per il punto in cui è anche stato posizionato nel decreto legge, presumo, e lo faccio con, mi pare, ragionevole certezza, che questo riguardi genericamente tutta Italia. Sì, questo riguarda tutto il territorio nazionale, ed è questa infatti una novità rispetto invece alle misure che autonomamente le banche hanno già preso e che riguardano essenzialmente i residenti nella cosiddetta zona rossa della Lombardia e del Veneto. Quindi ci sono soprattutto le grosse banche che hanno già avviato delle procedure di sospensione, per esempio Unicredit fino a un anno, Intesa San Paolo fino a 6 mesi, ma che riguardano unicamente appunto i residenti o comunque le attività presenti nelle zone rosse, mentre invece in questo caso la norma è sicuramente estesa a tutto il territorio nazionale, ma anche perché è indubbio che purtroppo le ripercussioni economiche saranno estese su tutto il territorio. Anna Vizzari, negli ultimi 10 anni ci sono stati altri momenti molto delicati per le famiglie italiane che rimborsavano o rimborsano appunto le rate di un mutuo. Abbiamo avuto nel momento peggiore della crisi recente, quando hanno preso il volo le rate dei mutui a tasso variabile dopo il 2008, dopo il 2009, la cosiddetta moratoria sui mutui, anche quella fu un'iniziativa di sistema che consentì a molte famiglie di sospendere, di poter chiedere alla banca appunto di sospendere il rimborso momentaneo del mutuo. Che differenza c'era fra quell'operazione e il fondo di solidarietà che è stato istituito più o meno poi nello stesso periodo? Sì, allora la differenza sostanziale è che quello è un accordo di tipo volontario, nel senso che non tutte le banche avevano aderito all'accordo, e comunque la banca aveva la possibilità di applicare o meno quella sospensione guardando la situazione finanziaria del soggetto. Quindi era molto, diciamo così, che la procedura era molto legata anche alla politica aziendale della singola banca. Il fondo di solidarietà invece ha dei paletti ben precisi, uguali per tutti, e tutte le banche devono rispettare questi criteri, per cui un mutuatario che ha acceso un mutuo in Italia con una qualsiasi banca operante sul territorio nazionale e che rientra nei parametri indicati nel fondo può accedere alla sospensione senza nessuna limitazione. Quindi questo è sicuramente un grosso vantaggio, perché è chiaro che un mutuatario in difficoltà molto spesso è un anello ancora più debole della catena rispetto a quello che succede normalmente per un cliente verso la propria banca, e quindi è chiaro che lasciare troppi elementi di soggettività nell'accettare appunto la sospensione alla banca è un problema, può essere un problema. Il fondo invece di solidarietà, appunto, essendo una legge, una norma, dovendo essere rispettata da tutti, in realtà ha dato appunto la possibilità a molti mutuatari in difficoltà di poter sospendere le rate. Magari è utile anche capire che cosa significa sospendere le rate, perché ovviamente ha una ripercussione economica. Esatto, perché allora si sospende, ma non è che il pagamento di quell'anno lo cancelli, lo procrastini semplicemente. Aspettatevi, io sono io questa volta che cosa sospendo fai? Entrambe. Perché è il 45esimo, sì, e l'arbitro fischia il traffico, ma torniamo subito. Hai qualcosa da dire in tema di soldi? Allora, dillo a Due di Denari, la nuova rubrica in cui ogni pensiero conta. Domande, opinioni, commenti a ciò che va in onda e suggerimenti per le prossime puntate. Inviaci una nota vocale al 349-238-6666 nel corso della diretta. Oppure scrivici in qualsiasi momento a duedidenari@radio24.it. due di denari. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Allora, ho interrotto poco galantemente entrambe le signore. Ricuci le fila. E allora, Anna Vizzari ci stava spiegando che significa esattamente sospendere le rate ricorrendo al fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Che significa esattamente, Vizzari? Che per un massimo di 18 mesi le rate possono non essere pagate, ma ovviamente questi 18 mesi dovranno comunque essere recuperate dalla banca e saranno recuperate successivamente, quindi dopo l'iniziale termine del piano di ammortamento del mutuo ci sarà un ulteriore periodo di 18 mesi, ma se la sospensione è stata ottenuta con il fondo di solidarietà, diciamo che lo Stato qualcosa paga per conto del cliente. Che cosa paga? Paga la quota interessi, quindi la quota interessi della rata. Ricordiamoci che la rata di un mutuo è composta da una quota capitale, che è la parte che riduce il residuo da riconoscere alla banca, e una quota interessi che invece appunto cambia di solito di mese in mese per un mutuo a tasso variabile, che comunque si riduce ovviamente con i ridursi del residuo sul piano di ammortamento, e il fondo di solidarietà paga questa parte, quindi la quota interessi, quindi sostanzialmente paga la quota determinata dall'Euribor per i mutui a tasso variabile o dal cosiddetto interest rate swap, quindi l'IRS, per i mutui a tasso fisso per il periodo di sospensione. Ovviamente se ci troviamo nella parte finale del nostro piano di ammortamento, questa quota interessi sarà molto bassa rispetto alla quota quella, capitale. Perché qui lo spirito mi sembra di capire è che lo Stato in questo modo sostiene comunque la banca che rinuncia all'introito della rata, no? Quindi, esatto, quindi comunque avremo un sostegno sia economico, ma sarà comunque limitato, magari sarà più sostanzioso se abbiamo chiesto la sospensione nei primi anni di vita del nostro mutuo. Allora, se il provvedimento del governo intende continuare ad utilizzare questo fondo di solidarietà, uno strumento già preesistente, sicuramente anche nelle modalità di richiesta di questo aiuto funzionerà come in passato. Anna Vizzari, non ci si deve rivolgere direttamente alla banca presso la quale si è contratto il mutuo, ma alla Consap, che è questo organismo appunto gestito dal Ministero dell'Economia, che peraltro gestisce molti altri fondi, risarcimento per le vittime degli incidenti stradali, tanto per dirne uno, li abbiamo ospitati molto spesso, quindi il riferimento è quello lì. Allora, la Consap gestisce sicuramente la richiesta, nel senso che verifica i requisiti, ma in realtà il mutuatario può portare documentazione e modulo di richiesta direttamente alla sua banca, che poi farà da veicolo, quindi sostanzialmente farà da intermediario tra il cliente e la Consap, e riceverà una risposta positiva o negativa dalla Consap, e quindi a quel punto potrà appunto, se la risposta è positiva, sospendere le rate. In genere la procedura si conclude dopo 45 giorni dalla richiesta di sospensione, quindi è abbastanza rapido. Ovviamente è molto importante che si rispettino i requisiti previsti dalla legge e che soprattutto si porti tutta la documentazione prevista. Per esempio, ci sono anche altri casi in cui si può accedere al fondo. Cito per esempio la perdita del rapporto del lavoro, no? Quindi la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o anche parasubordinato. In questo caso ovviamente bisognerà portare tutta la documentazione che dimostra appunto che c'è stato un licenziamento, oppure nel caso in cui per esempio si acceda alla sospensione perché c'è un'invalidità grave di almeno l'80%, ovviamente a quel punto bisognerà portare la certificazione medica necessaria a dimostrare questo. Mm-hmm. Quindi è molto importante fare attenzione a tutta la documentazione da portare, però devo dire che le banche di solito sono preparate su questo aspetto, quindi quando il mutuatario si presenta lo informano di tutto quello che è necessario portare per poter fare la richiesta. Per velocizzare l'operazione. Allora, un ascoltatore adesso, non credo che riusciamo a mandarlo in onda. Sì, ci sta provando Marco, quindi allora non anticipo la domanda che avrebbe voluto farci, ma le volevo chiedere, Vizzari, adesso a prescindere da questa iniziativa presa dal governo in questi giorni, perché è uno dei tanti versanti che bisogna fronteggiare, problematici appunto aperti dalla crisi da coronavirus, fino a questo momento comunque il fondo continuava a funzionare, oppure momentaneamente, diciamo, anche con la riduzione dei tassi di interesse che ha alleggerito molto il peso delle rate sui mutui, era come dire un po' sospeso lì, non utilizzato? Allora, sicuramente è stato più utilizzato negli anni precedenti all'attuale, sicuramente, come dicevi tu, subito dopo la crisi economica, quindi tra il 2010 e il 2013 abbiamo avuto tantissime richieste, adesso è meno utilizzato, però per carità è ancora operativo, è operativo. Per le casistiche che ho indicato prima. È un'informazione che diamo anche questa, sperando appunto che questa crisi attuale passi molto rapidamente. Come è arrivata, che se ne vada via altrettanto rapidamente. È quello che ci auguriamo un po' tutti, penso se lo auguri anche Federico, che ci ha chiamato da Bologna con una domanda proprio sulla sospensione del mutuo. Buongiorno Federico. Buongiorno a voi. Ci chieda. La mia domanda è... Non ho capito, pronto? Ci chieda. Sì, grazie. La mia domanda è questa. Oggi viene fatta la sospensione del mutuo per 18 mesi e grazie a questo fondo lo Stato prenderebbe a carico le spese degli interessi. Sì. La sospensione della quota capitale viene differita di tutto il periodo del debito e viene ripresa a 18 mesi. Ma da oggi alla fine la banca ricomincia a calcolare nuovi interessi su questa traslazione, perché io anni fa ho fatto questa, mi è stato chiesto di sospendere il mutuo, mi è stato imposto di sospendere il mutuo per, dovuto al terremoto. Io chiesi esplicitamente di non sospenderlo. Nonostante tutto me l'hanno sospeso, ma alla fine questo traslare queste sei rate mi ha comunque comportato il costo di questi interessi maturati. Certo, perché viene trasferito, ma aumenta, cioè la quota capitale residua in qualche maniera viene ad aumentare, quindi l'applicazione degli interessi sopra potrebbe essere maggiorata. Anna Vizzari ha ragione, ascoltatore. Allora, io sì, penso che però il radioascoltatore si riferisca alla sospensione dovuta alla moratoria ABI, sì, la quale prevedeva in effetti un nuovo calcolo degli interessi dopo la fine del piano di ammortamento, per cui in un certo senso gli interessi in effetti crescevano, perché per un certo periodo di tempo la banca ricalcolava degli interessi su quelli già previsti inizialmente. In questo caso, per come è stato costruito il fondo di solidarietà, in realtà, visto che la quota interessi comunque resta a carico dello Stato e si pagano semplicemente appunto le quote capitali per i 18 mesi, questo meccanismo non ci dovrebbe assolutamente essere. Quindi, degli quindi stiamo parlando di due tipi di sostegno diversi. Sì, scusate, esatto. Faccio un po', non voglio fare il capzioso, però visto che entrambe ci state avvertendo, attenzione, bisognerà poi vedere come le banche danno applicazione a questa estensione della misura. Possiamo escludere comunque, appoggiandosi al fondo di solidarietà, che ci sia questo ricalcolo di interessi? Sì, sul fondo di solidarietà sì. Mentre invece purtroppo abbiamo avuto questo ricalcolo degli interessi nel caso della moratoria ABI, anche perché lì era lasciato, come dicevo prima, alla politica anche aziendale della banca dare seguito a questa moratoria. Quindi molto spesso in effetti abbiamo visto dei piani di ammortamento ricalcolati sulla nuova durata e quindi con interessi che in effetti diventavano crescevano appunto per effetto dell'allungamento del piano di ammortamento sulle rate già calcolate. Altri spunti sul funzionamento del fondo. Allora, nel momento in cui noi chiediamo l'accesso al fondo di solidarietà, dobbiamo aver contratto un mutuo da non meno di un anno. Sì, giusto, perché, corretto. Esatto. Esatto. Se nel caso in cui io faccia questa richiesta tardiva al fondo di solidarietà, nel senso che sono già in arretrato con il pagamento di 3 o 4 rate, mi aprono la porta lo stesso? No, purtroppo no, perché non bisogna aver pagato il ritardo per più di 90 giorni, quindi attenzione, nel senso non facciamo la richiesta quando siamo già in difficoltà, pensiamoci prima, quindi non parliamo subito immediatamente con la banca se abbiamo delle difficoltà per poter appunto accedere a questa misura, perché purtroppo la norma prevede espressamente che non hanno accesso alla sospensione i soggetti che sono in ritardo nel pagamento della rata da più di 90 giorni. Quanto conta il valore della casa nella quale abitiamo, che abbiamo comprato? Allora, il mutuo non deve essere superiore a 250.000 euro, quindi questo è il limite, diciamo così, del valore, però stiamo parlando del capitale del mutuo, quindi non del valore della casa, che a questo punto può anche essere superiore, però la casa ovviamente non deve essere una casa cosiddetta di lusso, quindi deve rientrare nelle categorie catastali, per intenderci, non può essere una villa, un castello o una casa con annessa piscina. E altra cosa importante, l'indicatore ISEE di chi chiede la sospensione non deve essere superiore a 30.000 euro. Questo è un altro aspetto che molto probabilmente dovrà essere considerato anche per applicare questa estensione ai casi che stiamo vedendo adesso, perché è chiaro che si tratta di persone che sono in difficoltà per un evento eccezionale che probabilmente potrebbero avere un indicatore ISEE calcolato sull'anno precedente superiore. Certo. Ecco. Allora, innanzitutto una cosa di servizio: www.consap.it, da lì trovate il riferimento a questo fondo di solidarietà che, ripeto, esiste già, non è che è stato attivato adesso per il coronavirus, ma con il coronavirus appunto si è decisa una estensione per chi ha avuto, avrà una sospensione dal lavoro, una riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni, che a questo punto sarebbero compiuti i vizzari, perché l'ordinanza dell'emergenza è del 31 gennaio. Ah. Esatto, quindi in realtà potrebbe essere appunto che ci sono già dei soggetti che possano accedere alla sospensione. Bisogna però capire, a mio avviso, con un regolamento a questo punto, come si fa a certificare questa sospensione, cioè, certo, cosa serve per dimostrarla. Brava, ecco, brava, diamo questa sollecitazione insomma al legislatore. E allora, con questa sollecitazione concludiamo la nostra puntata odierna, cara Debora. Noi torniamo naturalmente anche domani e mercoledì riprendiamo anche i nostri mercoledì del lavoro, ma ovviamente un buon lavoro virus, figuriamoci.